Dopodiché si addormentò e arrivò l'incubo. Pereira veniva massacrato da una folla di contadini, ovviamente. Era un sogno atteso, che lui valutò con freddezza. Non aveva paura della morte, se l'era spesso figurata sotto gli auspici di un unico proiettile ben piazzato, o anche di una dozzina sparati al cuore dal plotone di un rivale. Ma dopo tutto il linciaggio, perché no? Era nato e cresciuto in una terra di rivoluzioni. In fondo era una morte meno infamante delle dita di un vecchio aggrappate a una trapunta. Nel suo sogno usciva da un albergo posato come un cubo al centro di una piazza vuota. Udì chiamare il suo nome. «Pereira!» E vide i contadini uscire insieme dalle case che circondavano la piazza. Piccole case di fango e paglia, un piano, che formavano un ampio cerchio intorno all'albergo e una folla enorme già addosso a lui. «D'accordo», pensò vuotando il caricatore sulla folla. «Case che vomitano il popolo affamato. Muoio di un attacco di allegoria». Continuava a sparare, ma il cerchio si stringeva inesorabilmente. Gli piaceva questa parola quando la trovava nei libri. Sparava più per principio che per speranza. Non bisogna farsi uccidere senza difendersi. L'ultima cosa che vide, prima che una mano lo grimisse, furono due uomini, laggiù, ai margini della piazza, in piedi sotto l'unico lampione, che davano le spalle alla scena e che, appoggiati con i gomiti a una bicicletta, guardavano ridendo silenziosamente un bagliore livido ai loro piedi. Un po' come un fuoco che avesse prodotto fiamme bianche. Le risate scuotevano le spalle dei due uomini. «Là è la vita», pensò Pereira, e tutto a un tratto ebbe voglia di vivere. Ma la folla già lo ghermiva e alla fine il terrore lo invase. Tuttavia le mani, i piedi, gli sguardi, le bocche stentate, le grida, i grugniti, gli aliti, i bastoni, i fucili, i macete, i primi colpi, i primi tagli non bastavano a spiegare il suo terrore. No, era qualcos'altro. Era peggio. Quell'odio. Quegli uomini e quelle donne che lo squartavano, lo tiravano per le mani, per i piedi, per la testa, i bastoni gli rompevano le ossa, i macete lo disarticolavano con precisione. Erano tutti dei Pereira e dei Martins. Si svegliò urlando. Il suo cuore ritrovò il ritmo giusto. Ah, era solo un incubo. Ma al mattino dovette farsi violenza per affrontare la piazza rotonda davanti alla porta del palazzo presidenziale. Tutto quel vuoto che minacciava di riempirsi gli ostruì la gola. Merda, sto diventando agorafobico. La notte successiva lo stesso incubo confermò la sua fobia. Ecco, la storia potrebbe finire qui, perché Pereira morì esattamente come nel suo sogno. Ma, come ogni uomo degno di racconto, lui volle sfuggire al suo destino. E tutta la storia di Pereira è la storia di questo tentativo. È questa storia che meriterebbe di essere raccontata.